4L. Ascolta e continua. Se vuoi dire la verità, dilla subito. Se vuoi dire la tua opinione, dilla subito. Se devi fare una passeggiata, falla subito. Se devi fare una composizione, falla subito. Se vuoi dare una mano, dalla subito. Se vuoi dare la tua adesione, dalla subito.